ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Verso la metà della notte, continuò la signora Dean, fui svegliata nel primo sonno da Cathy, che era entrata in camera mia, si era seduta accanto al letto e mi tirava i capelli per svegliarmi. «Non riesco a riposare, Nelly», disse come scusa, «e ho bisogno di un'anima viva che mi tenga compagnia nella mia felicità. Edgar è di cattivo umore, perché io sono contenta di una cosa che non lo riguarda. Ho parlato bene di Heathcliff, per un attimo, e lui, o perché ha mal di testa, o perché è invidioso, si è messo a piangere. Così mi sono alzata e l'ho lasciato solo». «Che senso ha parlare bene di Heathcliff con lui?» le risposi. «Da ragazzi non si sopportavano l'un con l'altro, e a Heathcliff darebbe fastidio allo stesso modo sentir parlare bene dell'altro. È la natura umana. Non parli di lui al signor Linton, a meno che non abbia intenzione di far scoppiare una lite fra di loro. Ma non è un segno di grande debolezza? Io non sono invidiosa. Non mi sento ferita perché i capelli di Isabella sono biondi e lucenti e la sua pelle è candida, né perché lei è così raffinata ed elegante e tutti quanti l'adorano. Suo fratello è contento di vederci andare d'accordo e perciò sono contenta anch'io. Ma loro due si somigliano tantissimo. Sono bambini viziati, Nelly. E pensano che il mondo sia stato creato per piacere a loro. Io li assecondo entrambi, però penso che una bella lezione non gli farebbe proprio male. Si sbaglia, signora Linton, ribattei. Sono loro che assecondano lei. Io lo so che cosa succederebbe se non lo facessero. Può ben permettersi lei di venire incontro ai loro capricci passeggeri, dal momento che la loro principale occupazione è quella di prevenire tutti i suoi desideri. Può darsi però che un giorno vi troviate di fronte a qualcosa che è ugualmente importante per entrambe le parti, e allora quelli che lei chiama deboli potrebbero rivelarsi non meno ostinati di lei. E allora lotteremo fino alla morte, non è vero, Nelly? Ribatté ridendo. No, io ti dico che ho una tale fiducia nell'amore di Linton che secondo me non gli verrebbe mai in mente di vendicarsi, neppure se lo uccidessi. Le consigliai di apprezzarlo ancora di più per questo suo affetto. «Ma io lo apprezzo», rispose. «Però lui non deve mettersi a piagnucolare per qualsiasi sciocchezza. Deve abituarsi a lui. Perciò tanto vale che se lo faccia piacere. Considerando le ragioni di Heathcliff per avercela con lui, credo che si sia comportato benissimo. Ma che cosa ne pensa del fatto che è andato a Cime tempestose?» chiesi. «Me l'ha spiegato. Anch'io non sapevo darmene ragione, come te. Ha detto di essere passato di lì per avere mie notizie da te, pensando che tu abitassi ancora lì. Joseph ha avvisato Hindley, il quale è uscito e ha finito col chiedergli che cosa aveva fatto, come era vissuto, e alla fine l'ha invitato a entrare. C'erano delle persone che giocavano a carte e Heathcliff si è unito a loro. Mio fratello ha perso del denaro con lui e, scoprendo che Heathcliff ne aveva volontà, gli ha chiesto di tornare la sera e lui ha accettato. Ma Heathcliff sostiene che la ragione principale è il desiderio di sistemarsi a poca distanza dalla Grange e l'attaccamento alla casa dove siamo vissuti insieme, oltre alla speranza che io possa avere più occasioni di vederlo lì che non se si stabilisse a Gimmerton. Intende pagare bene in cambio del permesso di alloggiare a Cime tempestose, e non c'è dubbio che la cupidigia di mio fratello lo indurrà ad accettare le sue condizioni. È sempre stato avido, anche se quel che arraffa con una mano lo butta via con l'altra. Un bel posto per un giovanotto che vuole metter su casa, dissi. Non ha paura delle conseguenze, signora Linton. Nessun timore per il mio amico, replicò. Quello che è successo stasera mi ha riconciliato con Dio e con l'umanità. Nella mia rabbia avevo osato di ribellarmi alla provvidenza. Oh, sono stata molto, molto infelice, Nelly. Se quella persona lo avesse saputo, si vergognerebbe di offuscare la mia gioia ritrovata con la sua futile petulanza. È stato per riguardo verso di lui che ho sopportato la mia pena in solitudine. Se avessi dato voce all'angoscia che spesso provavo, avrebbe imparato a desiderare che finisse con la stessa intensità con cui lo desideravo io. Comunque, ora è passata. Non mi vendicherò della sua incapacità di capire. D'ora in poi posso sopportare qualunque cosa, se la più meschina delle creature viventi mi schiaffeggiasse, io non solo porgerei l'altra guancia, ma le chiederei scusa per averla provocata. E a prova di questo, me ne andrò immediatamente a fare la pace con Edgar. Buonanotte, sono un angelo. E così, tutta convinta e compiaciuta di se stessa, se ne andò. E il successo con cui portò a termine il suo proposito fu evidente il giorno dopo. Il signor Linton aveva non solo accantonato la sua irritazione, anche se la vivace esuberanza di Catherine sembrava metterlo ancora un po' a disagio, ma non sollevò alcuna obiezione al progetto di lei di portare con sé Isabella a Cime Tempestose nel pomeriggio. E lei lo ricompensò con tanta solare dolcezza e affettuosità che per alcuni giorni la casa fu un paradiso e il padrone come i domestici godettero di questo bel tempo stabile. Heathcliff, il signor Heathcliff, dovrei dire d'ora in poi, in principio usò con prudenza la sua libertà di accesso alla Grange. Sembrava volersi rendere conto fino a che punto il padrone fosse disposto a tollerare la sua intrusione. Anche Catherine giudicò saggio moderare le proprie espressioni di piacere nel riceverlo. Così, gradualmente, lui si assicurò il diritto di essere un ospite regolare. Era ancora molto riservato, come lo era stato da ragazzo, e non si lasciava andare ad aperte manifestazioni di affetto. L'inquietudine del mio padrone conobbe una tregua e per un certo tempo fu rivolta altrove da altre circostanze. La sua nuova fonte di preoccupazione scaturì da una disavventura imprevista. Isabella Linton manifestò un'improvvisa e irresistibile attrazione per l'ospite a malapena tollerato. Suo fratello, che le voleva un gran bene, fu costernato da questa sua stravagante infatuazione. A parte il declassamento legato a un matrimonio con un uomo senza nome e la possibilità che la sua proprietà, in mancanza di eredi maschi, entrasse in possesso di un tale individuo, Linton aveva il buon senso di capire quale fosse la vera natura di Heathcliff. Sapeva che, per quanto cambiato esteriormente, il suo animo era immutato e immutabile. Tutti avevamo notato ormai da qualche tempo che la signorina Linton si consumava e si struggeva per qualcosa. Era di cattivo umore, noiosa, non faceva che rispondere male a Catherine e provocarla, con il rischio incombente di esaurire la sua limitata pazienza. La scusavamo fino a un certo punto, pensando che si trattasse di cattiva salute. Dimagriva e sfioriva sotto i nostri occhi. Un giorno, che era stata particolarmente capricciosa, la signora Linton le ordinò perentoriamente di andarsene a letto e, dopo averla ben sgridata, minacciò di chiamare il dottore. A sentir parlare di Kenneth, protestò all'istante di essere in perfetta salute e che era solo la durezza di Catherine a renderla infelice. «Come fai a dire che ti tratto con durezza, cucciolo impertinente?» gridò la padrona, stupita da questa irragionevole affermazione. «Devi aver perso la testa. Quando mai sono stata dura? Dimmi!» «Ieri!» singhiozzò Isabella. «E adesso?» «Ieri?» ripeté sua cognata. «E in quale occasione?» «Quando camminavamo nella brughiera. Mi hai detto di andarmene in giro dove mi pareva, mentre tu facevi la tua passeggiatina con il signor Heathcliff. E sarebbe questa che tu chiami durezza?» disse Catherine ridendo. «Non volevo dire che la tua compagnia fosse indesiderata. Non ci importava affatto che tu restassi con noi o no. Semplicemente pensavo che non ci fosse niente che potesse interessarti nei discorsi di Heathcliff. «Oh no!» pianse la signorina. «Tu volevi che me ne andassi, perché sapevi che avrei voluto restare». «È matta?» chiese la signora Linton, rivolgendosi a me. «Ti ripeterò la nostra conversazione parola per parola, Isabella, e tu mi dirai in quale punto avresti potuto trovare un interesse». «Non mi importa la conversazione», rispose. «Io volevo restare...» «Allora?» disse Catherine, vedendo che esitava a completare la frase. «Con lui. E non voglio essere sempre mandata via», continuò infervorandosi. «Tu vuoi fare la parte del leone, Cati, e non ti va che qualcun altro venga amato oltre a te». «E tu sei una scimmietta impertinente», esclamò la signora Linton sorpresa. «Ma non voglio nemmeno credere a questa stupidaggine. Non è possibile che tu ambisca a essere ammirata da Heathcliff, che tu lo consideri una persona piacevole. Spero che ci sia un equivoco, Isabella». «No, nessun equivoco», rispose la ragazza infatuata. «Io lo amo più di quanto tu abbia mai amato Edgar, e lui potrebbe amarmi, se tu glielo permettessi». «Ah, non vorrei essere al tuo posto per nulla al mondo allora», dichiarò Catherine con enfasi, e sembrava parlare sinceramente. «Nelly, aiutami a convincerla della sua pazzia. Dille che cos'è Heathcliff. È una creatura allo stato naturale, senza educazione, senza cultura, una landa desolata di pietre e di rovi. Preferirei, guarda, mettere quel canarino nel parco in un giorno d'inverno, piuttosto che incoraggiarti a mettere il tuo cuore nelle sue mani. Io so che non potrebbe amare una Linton, ma sarebbe capace di sposare il suo danaro e la sua posizione. L'avidità sta diventando il suo peccato principale. Ecco, ti ho fatto il suo ritratto e io gli sono amica. Talmente amica che se lui avesse avuto davvero intenzione di accalapiarti, forse avrei dovuto stare zitta e lasciarti cadere nella trappola». La signorina Linton guardò sua cognata con indignazione. «Vergognati, vergognati!» ripeté arrabbiata. «Sei peggio di 20 nemici, tu, amica velenosa!» «Non mi vuoi credere, allora», disse Catherine. «Pensi che io parli solo per cattiveria ed egoismo?» «Ne sono certa», la rimbeccò Isabella, «e mi fai rabbrividire». «Bene», gridò l'altra. «Prova di persona, se è così che la pensi. Io ho detto la mia e cedo di fronte alla tua insolente petulanza». «E io devo soffrire per il tuo egoismo», singhiozzò Isabella, mentre la signora Linton usciva dalla stanza. «Se lo tolga dai pensieri, signorina», dissi. «È un uccello del malaugurio, non fa per lei. La signora Linton ha usato parole forti, ma non mi sento di contraddirla. Conosci i sentimenti di lui meglio di me e di chiunque altro, e non lo dipingerebbe mai peggiore di quello che è. La gente onesta non nasconde le proprie azioni. Com'è vissuto? Da dove viene la sua ricchezza? Perché alloggia a cime tempestose nella casa di un uomo che detesta? Dicono che il signor Hurton sia diventato sempre peggio da quando lui è arrivato. Non fanno che stare alzati insieme tutta la notte, e Hindley si fa prestare danaro dando impegno alle sue terre e non fa che giocare e bere». «Sei in combutta con tutti gli altri, Nelly», ribatté. «Non voglio più sentire le tue calunnie. Che cattiveria devi avere dentro per volermi convincere che non esiste felicità in questo mondo». Forse, lasciata a se stessa, avrebbe superato questa infatuazione. O forse l'avrebbe testardamente nutrita in eterno, non lo so. Non ebbe molto tempo per rifletterci. Il giorno successivo, il mio padrone dovette andare nella città vicina per una seduta in tribunale e il signor Heathcliff, informato della sua assenza, si presentò più presto del solito. Catherine e Isabella erano seduti in biblioteca, in atteggiamento ostile, ma in silenzio. L'una era in ansia per la sua recente indiscrezione, per avere rivelato in un attimo di rabbia incontrollata i suoi segreti. L'altra, dopo matura riflessione, realmente offesa, e anche se si mostrava divertita dell'impertinenza di Isabella, non era disposta a fargliela passare liscia. Quando vide arrivare Heathcliff dalla finestra, si mise a ridere. Io stavo spazzando il camino e notai che il suo sorriso aveva un che di malizioso. Isabella, assorta nelle sue meditazioni o nel suo libro, rimase finché la porta si aprì e poi fu troppo tardi per tentare la fuga, come avrebbe fatto volentieri se fosse stato possibile. «Giusto te, vieni avanti!» esclamò allegramente la padrona, accostando una sedia al fuoco. «Qui ci sono due persone che hanno un tremendo bisogno di una terza per sciogliere il ghiaccio fra di loro. Ed è proprio te che sceglieremmo tutte e due. Heathcliff, sono orgogliosa di poterti finalmente mostrare qualcuno che ti ama più follemente di me. Spero che tu ti senta lusingato. No, no, non è Nelly, non guardare lei. Il cuore della povera mia cognatina si spezza al solo contemplare la tua bellezza fisica e morale. Non dipende che da te diventare il fratello di Edgar. No, no, no, Isabella, non scappare», continuò, e fingendo di giocare bloccò la ragazza che, allibita e indignata, si era alzata in piedi. «Stavamo litigando come due gatte per te, Heathcliff, e io sono stata battuta dalle sue dichiarazioni di adorante ammirazione, e come se non bastasse, sono stata informata che se soltanto avessi la buona grazia di farmi da parte, la mia rivale, come lei si considera, scoccherebbe una freccia nel tuo cuore che ti catturerebbe per sempre e getterebbe la mia immagine in un oblio perenne». «Catherine», disse Isabella, ritrovando tutta la sua dignità e non degnandosi di lottare per liberarsi dalla stretta che la immobilizzava, «ti sarei grata se ti attenessi alla verità e se non mi calunniassi neppure per scherzo. Signor Heathcliff, abbia la bontà di chiedere alla sua amica di lasciarmi andare. Sta dimenticando che lei e io non siamo in rapporti di intimità. Ciò che diverte tanto Catherine addolora me oltre ogni dire». «Credo che tu le faccia torto, Catherine», disse Heathcliff girando la sedia verso di loro. «In ogni caso, in questo momento non desidera affatto la mia compagnia». E rivolse uno sguardo penetrante all'oggetto del discorso, come si farebbe con un animale sconosciuto e ripugnante, per esempio un centopiedi delle Indie, che la curiosità ci spinge a esaminare nonostante il disgusto. La poveretta non poté sopportarlo. Impallidì e arrossì in rapida successione e con le ciglia imperlate di lacrime si applicò con tutta la forza delle sue piccole dita per allentare la salda stretta di Catherine. Accortasi che non appena riusciva ad alzare un dito, un altro si richiudeva sul suo braccio e che non era in grado di staccarli tutti insieme, cominciò a usare le unghie e presto la pelle di Catherine fu ornata di mezzelune rosse. «Che tigre!» esclamò la signora Linton, lasciandola libera e scuotendo la mano dolorante. «Va via, per amor di Dio! Va a nascondere quella tua faccia da vipera!» «Ma che scopo avevi per tormentare così quella creatura, Cathy? Non parlavi sul serio, non è vero?» disse lui quando la porta le si richiuse alle spalle. «Ti assicuro di sì. Sono settimane che si consuma per amor tuo e stamattina delirava per te. E io le voglio troppo bene, mio caro Heathcliff, per permettersi di afferrarla e divorartela». «E io gliene voglio troppo poco per provarci», disse lui, «a meno che non potessi mangiarmela davvero. Ne sentiresti delle belle se vivessi da solo con quella smorfiosa bianca come la cera. Come minimo dipingerei sulla sua faccia smorta tutti i colori dell'arcobaleno e farei diventare neri quegli occhi blu. Un giorno sì e uno no. Sono odiosamente simili a quelli di Linton». «Piacevolmente simili», osservò Catherine. «Sono occhi di colomba, di angelo». «È l'erede di suo fratello, vero?» chiese lui dopo un breve silenzio. «Mi dispiacerebbe doverla pensare così», ribatté lei. «Una mezza dozzina di nipoti cancelleranno ogni sua pretesa in merito, se Dio vuole. Togliti quest'idea dalla mente adesso. Sei troppo portato a desiderare i beni dei tuoi vicini. Ricorda che i beni di questo vicino sono miei. Se fossero miei, non sarebbero perciò meno tuoi, disse Heathcliff. Ma per quanto sciocca Isabella Linton possa essere, non è certo una pazza. E per farla breve, lasceremo cadere l'argomento, come tu consigli. Dai loro discorsi lo lasciarono cadere e Catherine probabilmente anche dei suoi pensieri, ma l'altro, Nero Sicura, ci ripensò spesso nel corso della serata. Lo vidi sorridere tra sé, o meglio sogghignare, e immergersi in sinistre meditazioni ogni volta in cui la signora Linton si assentava dalla stanza.